E quindi stavo parlando del ruolo della mail art da questo punto di vista. Dov'è Darko Marder? C'è lì? No, Dove lo posso cercare? ma c'era prima della cosa. Ah, se no La vai. pagina di prima? Sì, mi sembra. No, prima ancora. No, non qua, non Quella qua. In dell'Interblick? quella di Luther Blix, sì, ok. Darko Marder, dice controversial cyber sculpture and performance art. No, non c'è un cosa. Darko et al. Is a Sicilian member of the Luther Blix Project. No, vabbè, che the truth is revealed a few weeks after the seppuku. The works are pictures of actual corpses found on rotten.com. Okay. It's a like this hoax. It's the last big hoax by Luther Blix Project and the boot of the new group. In realtà loro l'hanno sempre firmato 001, cioè, no? In realtà non è stato mai firmato questa roba Seppuku di come Marvel. parola giapponese. Sì, seppuku hanno loro, anzi, quando si sono rivelati come Luther Blix e hanno cambiato nome, lo hanno chiamato seppuku. Ah. Sì, abbiamo fatto seppuku. È il loro, diciamo, seppuku. Lauching. Sì, perché si sono, perché hanno suicidato Luther Blix e l'hanno fatto rinascere praticamente come Wu-Ming. Insomma, quindi qui troverai appunto questo Ray Johnson, c'è un altro nome che si chiama Karen Elliott, cioè, allora, la pratica dei nomi falsi era una pratica che si era già diffusa in certi ambienti artistici e in tutta questa storia troverai sempre una commistione, vedi che c'era il nome, aspetti, ormai c'è, una commistione tra eventi reali, eventi falsi, tra mondo dell'arte e mondo della comunicazione politica, della sovversione politica, mondo della, insomma, tra tutta una serie di mondi di questo tipo. Allora, beh, per esempio, una delle cose che qui in questo libro, Karen Elliott è citata in continuazione, Karen Elliott. Il testo è tratto da un altro libro di Stuart Home che non è tradotto in italiano, ma insomma è. Si diceva che sopra che Karen Elliott non è nata, è l'incarnazione delle correnti sociali, è stata costruita come uno strumento per muoversi sul terreno franoso che circonda l'individuo e la società. Il nome Karen Elliott può essere usato strategicamente per siglare azioni, interventi, mostre e testi di ogni tipo. Quando rispondi a lettere o domande riguardanti un testo o azione siglato Karen Elliott, rispondi continuando ad usare questo nome. Invece nei rapporti amicali e personali, dove hai un'esistenza altra rispetto a quella di chi usa il nome, non ha senso continuare ad usarlo. Se usi il nome nella tua vita privata, c'è il rischio che Karen Elliott venga identificata come una persona precisa, così dice Stuart Home. Un episodio che qua non viene, di cui si parla poco, ma in cui era coinvolto, fu coinvolto Pier Mario Ciani, negli anni Ottanta, è una delle poche cose che negli anni Ottanta. Fu un progetto chiamato The Great Complotto, The Great Complotto, quindi con una sorta di italo-americano, in cui si era coinvolto Pier Mario Ciani. Io me lo ricordo perché io non ne sapevo niente allora, negli anni Ottanta fu il decennio in cui mi stavo leccando le ferite, appunto. Però mi ricordo compravo Frigidaire e Frigidaire, la rivista di allora, rivista di fumetti, di cultura alternativa, eccetera, Frigidaire, proprio chiamata così, ora è stata riedita, ma poi è stata chiusa a lungo, cioè, comunque negli anni Ottanta usciva, fu una delle riviste fondamentali per il fumetto italiano, per una serie di cose. Bene, in questa rivista diede molto spazio a questo The Great Complotto, e ovviamente in cui c'era dentro questo appunto Pier Mario Ciani, cos'era? Si tratta di un gruppo musicale inesistente, con sede a Pordenone, di cui però uscirono dei dischi, uscì un 45 giri, uscirono delle cose, diciamo, la musica era costruita con musicisti dilettanti, alcune cose sono suonate per Mario, poi erano era l'alba, non c'era ancora neanche il computer, insomma, non c'erano, comunque se c'erano i primi computer non c'erano ancora tutti questi programmi di editing con il fuoco. Quindi è una roba fatta comunque con tecniche analogiche. Se non vado errato, era pure coinvolto un fumettista, adesso abbastanza noto, ma all'epoca praticamente sconosciuto, che era un giovanissimo Massimo Giacon, un ragazzo di Padova che poi partecipò alla creazione del gruppo Valvoline, o comunque fu vicino alla creazione del gruppo Valvoline, dei fumettisti bolognesi, insomma, diciamo che erano Brolli, Igor, cioè, i due nomi più famosi, la famosa gente che insomma, comunque. Venne costruita tutta una falsa storia di questo gruppo che suonava per accreditare l'idea che a Pordenone, città nella quale io sono vissuto per un anno tanto tempo fa, e ti posso garantire che insomma, adesso poi ci sono stato, insomma, comunque negli anni 80 era squallida esattamente come negli anni 60 quando l'avevo vista io, insomma, quindi è una realtà che era totalmente improbabile che ospitasse qualunque. Però c'era questo Pier Mario Ciani che abitava invece in provincia di Udine, cioè, che conosceva bene i posti, quindi lui accreditò l'idea che forse non ci fosse un movimento di underground musicale importantissimo, eccetera, eccetera, esatto, e dice. E con una, sempre con una sorta di teoria del complotto, perché questo è il nome del gruppo, no? The Great Complotto, quindi come se fosse un grande complotto, non là per escludere Pordenone dai circuiti internazionali, tutta una roba assolutamente, però i dischi vennero, come dire, prodotti, i volantini vennero altri prodotti, Pier Mario era un grafico essenzialmente, quindi lui diciamo, si occupava praticamente della parte grafica, eccetera, erano cose bellissime, erano delle cose molto belle. Ma la prossima volta ti porto il libro se riesco a trovarlo, perché c'è ancora metà dei libri, metà no, ma insomma c'è ancora vari libri nelle casse. Quindi. insomma, non c'era ancora né Luther Blissett né c'è niente, ma era The Great Complotto, è stato un progetto in pieno stile Luther Blissett, cioè creare un evento che non c'entrava, che era un evento. No, poi l'altro, l'hai trovato, eccolo qua, The Great Complotto, sì, ma è tutto, poi dopo c'è, poi è chiaro che c'è traccia, è rimasto traccia. Ma ti dico, concepito però in epoca, non c'era ancora internet all'epoca, quindi proprio come dire, utilizzando reti analogiche, però reti, cioè la logica era sempre quella di utilizzare le reti, esistenti. Vittorio Baroni e Pier Mario Ciani già collaboravano insieme all'epoca, questo è il complotto, adesso questi non li ho visti tutti. Qua c'è da divertirsi, cioè si passano giornate, insomma, perché via uno l'altro, te ne puoi trovare un sacco. Le prime bands provenienti da Pordenone. Noi siamo qui non come pop stars, ma come qualsiasi kid potrebbe fare. Siamo via del caso di casa. Sai che aveva già 40 anni all'epoca. Noi siamo tanto normali kid con le divertirsi, ragazzi, non avevo tele maggiori, già con la barba, bla bla bla, eccetera. Miss Cox, poi firmate. Allora, 79, guarda. 79 siamo, quindi vedi, cioè assolutamente il computer non c'è, non c'è. Grazie. Da sempre stato l'artista che da sempre. Diego Alessandri, ma tutta gente che probabilmente non esiste, Simon, Tom Gano, Willy Gibson. Perché già comincia, si sa già, insomma. Stefano Steve, Pordenone, vabbè, adesso questa perché vedi, è stato rifatto di recente, qui c'è qualcuno che è andato a prendere, quindi non so se quelli sono, questi pagano i testi originali, però poi qua ci ha messo le mani qualcuno che già sa che è la cosa. Allora, già che ci siamo, così finisco e ti racconto l'altra grande beffa di Luther Blissett, su cui ha collaborato, anzi, quella con cui Mario Ciani ha collaborato di più, che è che è stata la cosa di maggior successo, no, perché poi non si è concretata, ma è stato, diciamo, con la firma Luther Blissett, probabilmente il tentativo più ambizioso. Ma c'è stata una riunione. Vabbè, sì, questa non la sapevo, vedi. C'è stata addirittura una riunione. Ma chissà con chi l'ha fatta, perché non c'erano quelli. Vabbè, uno è morto, povero, Pier Mario non c'è più, quindi. Quindi queste sono foto chi lo sa, non ti so dire, non posso dirtelo Marco io, perché questo, sai, questo è un sito, questo non l'ho mai visto, quindi è stato fatto. Adesso vediamo se riconosco. Allora, qui per Mario non c'è, quindi neanche da giovane, a meno che non si potrebbe essere lui da giovane, ma. Plexi, più Ado, più Gibson, più Vero, ma che bar, non sono questi invece sono Sexy Angel, sì, ma non è. Allora, e poi c'è stato Prozac dopo, sì, alcune cose poi sono venute fuori, qualcuno di Pordenone poi è uscito fuori, ma negli anni successivi, cioè i Prozac c'erano, sì, sì, era un gruppetto, era un ragazzo e una ragazza, credo. Che poi... Sì, insomma, hanno avuto un minimo, un momento di questi Hitler, se non so cosa ci sia. Fa qualcosa, anche il 77, 76. Comunque, non lo so, bisogna sempre diffidare, perché non siamo mai sicuri di... Paolo Giù, Davide Toffolo è un fumettista adesso, cioè è quello lì, i tre dei ragazzi morti. Sì, dovrebbe essere quello lì, certo. Ma giovanissimo, madonna. Allora, quindi vedi, alcune probabilmente sono 20th Century Zorro, Pordenone 83. Vabbè, insomma, comunque, poi dopodiché questa cosa ha comunque creato, come sempre si mescolavano le cose vere con le cose finte, insomma. Quindi di ok, questo è Darko Mahler. Questo articolo è mio, come vedi. E poi insomma. Sì, sì. One of the biggest articles deception che hai sentito. Va bene. Va bene, su Darko Mahler però parliamo la volta prossima che ti racconto. Adesso volevo chiudere con Harry Kipper invece. Perché Harry Kipper è stata la. Sì, dai, chiudiamo con questo. Harry Kipper è stata la beffa che è andata più vicino. Concepita all'interno dell'Uther Blissett bolognese. Non so se si scrive. Sì, va benissimo. Kipper. No, o Kipler, sai che non mi ricordo come. Proviamo a vedere, non so, no, lascia così. Sì, Harry Kipper, ok. L'Uther Blissett è un pezzo dell'archivio. Allora, l'operazione è stata concepita perché andasse alla trasmissione Chi l'ha visto, che era, all'epoca aveva grande successo su Rai 3, eccetera. Parliamo del 90, boh, non ricordo, che anno da qui. 95, siamo in circa nel 95. Allora, Harry Kipper è un nome che era già compare già più o meno, qualcuno l'aveva già usato nel neoismo, in altre correnti all'interno. I Luther Blissett prendono questo nome e costruiscono questa, come dire, figura. Chi è questo Harry Kipper? È un artista, non più inglese o insomma tedesco, non mi ricordo più, austriaco, non mi ricordo. Vedi che lì ci sono tutte le cose, sì, sì. Allora, il quale che cosa sta facendo, dicono Luther Blissett, sta percorrendo l'Europa in bicicletta, per scrivere con il suo percorso, lui scrive la parola art, A-R-T, per tutta l'Europa. No? È una grande operazione artistica che è quella di scrivere art in Europa. C'è un personaggio di un romanzo di Orco Giuda, mi ricordo più il nome, la trilogia di New York, vabbè, di un autore americano. Trilogia di New York, madonna, ragazzi, la quando esce poi. Va bene, ci metti un'ora di tempo, ma okay. Paul Auster. Allora, c'è un personaggio di un romanzo di Paul Auster, pubblicato negli anni 80, molti anni, anni prima, che fa qualcosa del genere. Adesso non so se, non posso essere sicuro che Luther Blissett l'abbia preso da lì, cioè lui quel personaggio del romanzo di Paul Auster cammina a piedi per il Central Park di New York e scrive una lettera, scrive però per una cosa del genere, cioè con la sua passeggiatina scrive una cosa. Loro si inventano che Harry Keeper invece fatta questa. Benissimo. Harry Keeper è partito dalla Francia, Inghilterra, eccetera, ha scritto già la A e la R le ha già scritte, stava scrivendo la T, stava finendo di scrivere la T con la sua cosa, e a un certo punto arriva in Friuli. Perché arriva in Friuli? Perché Pier Mario Ciani abita in Friuli, evidentemente, c'è questa ragione. E a un certo punto in Friuli è ospite di Pier Mario Ciani, è ospite di altre persone, viene ricostruita tutta questa cosa, evidentemente. Pier Mario fa delle diciamo, dichiarazioni, eccetera, dopodiché dice abbiamo perso Harry Keeper, cerchiamolo per favore perché è un nostro amico, poi non è neanche più tanto giovane, insomma chissà cosa è successo, siamo molto preoccupati. E quindi cominciano, costruiscono la cosa, come vedi gli articoli sulla stampa locale fioccano, cioè la stampa locale ci casca tutta più o meno, adesso gli articoli... No, torniamo indietro, ok. Il piccolo, 4195, trafiletti sul gazzettino, quindi questo serve perché? Questo serve ovviamente per convincere chi l'ha visto, no? Dopodiché, adesso non so bene come, siccome io non c'ero in questa storia qua, non la conosco diciamo dall'interno, come conosco altre cose, un po' più dall'interno. Però comunque insomma mandano la richiesta a chi l'ha visto. La troupe di chi l'ha visto arriva, parlano con Pier Mario Ciani, non parlano con i bolognesi perché i bolognesi non c'entrano, sono un'altra cosa, quindi è stato Pier Mario Ciani che ha gestito tutta diciamo, l'interfaccia pubblica, se l'ha gestita lui, perché era stato ospite da lui, perché era così, perché era va, perché era mio amico, perché ci conosciamo, ma così, ma chi cosa fa, ma sì, è una bella persona, eccetera, eccetera. La truppa arriva e per quello che ne so io si convince, arriva a La Tisana o a Udine, insomma più o meno vicino a casa di Pier Mario li convince, la trasmissione viene preparata, quando la truppa ritorna a Roma, la tipa che all'epoca, non so più chi era, che presentava quella giornalista lì, insomma ha qualche dubbio. A questo punto gli fanno le pulci, andiamo a vedere, controlliamo, no ma sarà vero, non sarà vero, insomma non li hanno mai smascherati davvero, ma siccome avevano dei dubbi che non fosse reale, una cosa reale, quindi alla fine poi la trasmissione non si è fatta, quindi in effetti non è andata in onda, certo. Quindi sono andati, infatti il titolo è Come andò che Luther Blizzard quasi arrivò a chi l'ha visto, perché in realtà non esatto. Però ci sono tutti i documenti finali, questa fu una roba che se fosse riuscita sarebbe stata epocale, perché l'avrebbero... Tutte queste cose perché venivano fatte? Per divertirsi? No, in questo caso per esempio era quello per mostrare nel modo più chiaro che le regole sulle quali si basa l'informazione sono regole bacate, sono regole che portano con sé la possibilità del falso, la possibilità del fake, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, un singolare documento che adesso non lo so se si possa più trovare, però ti consiglio di cercartelo, non ora con questa connessione qua, ma quando si accade, in cui anche i cosi non parlano mai, eccetera. È uno dei film più interessanti di Orson Welles. È fatto fino al 50, primi anni 60, che si chiama F for Fake, F per falso. È una specie di docufiction, prima che ci fosse la docufiction, perché ancora all'epoca non era. È un film curioso, dura non so se un'ora e mezzo o poco più di un'ora, comunque tutto in bianco e nero. Parte da un caso reale, cioè dal caso di un pittore, di un falsario, di un pittore che viveva, capo che ha vissuto per tutta la vita facendo falsi, che poi a un certo punto alla fine della sua vita si svela, eccetera, eccetera. E quindi sono le interviste con questo pittore che ti racconta, ho fatto questo falso Monet, ho fatto questo falso... però il racconto della vita di questo pittore dà lo spunto a Orson Welles per fare una serie, per fare un discorso che viene intervallato per tutto il film. Quindi il film è fatto con alcune sequenze della ricostruzione di questo pittore falsario, eccetera, però il tema si allarga e chi allarga il tema è lo stesso Orson Welles che parla davanti alla macchina da presa, quindi non è più giovanissimo, insomma, è già, però è... Adesso non mi ricordo l'anno, mi sono preciso, ma... e dopo un po' che tu vedi questo film, il film è presentato benissimo, eccetera, quindi tu hai il dubbio in realtà che questo pittore di cui si parla in realtà non sia mai esistito, che sia un ulteriore falso che Orson Welles ha fatto per dire, adesso voglio fare un film sul falso, per dire che faccio un film, per dire che il film è sul falso. Vi parlo di un pittore che faceva falsi, ma pensa se questo pittore che faceva i falsi è un falso pure lui, non è mai esistito. Quindi è un falso di non solo di secondo, di terzo livello, di quasi, cioè è un gioco di scatole cinesi o due specchi uno di fronte all'altro, quello che i francesi chiamano la mise en abîme, la messa nell'abisso, insomma, cioè, in cui hai le immagini infinite che vanno che si specchiano in continuazione. Insomma, il falso ha una potenza, ha una forza quando è fatto bene, perché se è un falso verosimile, se è un falso, in genere ci cascano quasi tutti, insomma, è la dimostrazione di una necessità che gli esseri umani hanno di credere in qualcosa, eccetera. Ma in realtà questo qualche cosa, e gran parte delle cose in cui gli esseri umani credono, non hanno un'esistenza... diciamo sensibile, densa, degna, eccetera, eccetera. Tutto questo ha una valenza, diciamo, di corrosione, di critica sociale e politica, a prescindere dalla coscienza che i singoli autori ne abbiano. Quando fai un falso, tu non solo per quello che dici, ma per il solo fatto di concepire e realizzare un'operazione del genere, tu metti in discussione i fondamenti i fondamenti sociali sono che ci sia una corrispondenza tra le dichiarazioni delle persone, quello che la gente dice, e i fatti del mondo. Mentire è considerato un gesto eticamente riprovevole, a volte anche legalmente perseguibile da un punto di vista. Eppure, ciononostante, ciò che il falso dimostra è che la menzogna è l'essenza del linguaggio. Ed è anche l'essenza dell'immagine, ed è anche l'essenza... piuttosto che dare per assodato che questa corrispondenza tra parola e mondo sia scontata, tutta questa galassia di operazioni dimostra che invece ogni volta che io voglio essere sicuro che c'è questa relazione tra parole e mondo o tra immagini e mondo, io devo invece probabilmente fare un lavoro lungo di indagine e di... Cioè, allora, detto in una formula più sintetica e più semplice, l'accordo delle parole col mondo non è un dato di fatto, è qualcosa che va costruito, è qualcosa che va dimostrato, non può essere presupposto. Paradossalmente è meglio presupporre che tutto sia falso, come a un certo punto disse Nietzsche nello Zarathustra, e come riprese William Burroughs nelle sue opere, non mi ricordo più quali, niente è vero, tutto è permesso. Niente è vero, tutto è permesso. Questo vuol dire che non esiste la verità, nel senso che esiste la verità come convinzione personale, questo è ovvio, ma non esiste la verità oggettiva, universale, cioè una sorta di accordo tra alcune asserzioni e degli stati di fatto, che l'accordo tra parola e mondo è sempre problematico, come quello tra immagine e mondo naturalmente è sempre problematico, e che gran parte dell'attività umana non consiste in nient'altro che nel tentativo disperato a volte di stabilire questo fatto. D'altra parte però è anche vero che la convinzione che una verità del genere ci sia o che sia stata già raggiunta eccetera eccetera è una molla importante delle azioni umane, cioè probabilmente molte azioni umane non avrebbero luogo, non si verificherebbero, non verrebbero compiute se non ci fosse questa convinzione di fondo che esse rispondono alla verità o alla... Quindi è un paradosso. Da un lato l'essere umano ne ha bisogno per poter fare delle cose, dall'altro però deve essere consapevole della fallibilità, quindi della relatività, del carattere storico, quindi praticamente di ogni relazione tra linguaggio e stato di cose. Direi che per oggi basta così. Ci siamo tutti giorno.